dammi la mano, stasera ti vedo diversa, i tuoi occhi hanno un altro colore, in strada c'è aria di festa, ora la gente pensa all'amore. Di cose lasciate al passato, senza rimpianto, senza dolore. Senti l'estate, l'estate che ritorna, senti con tutte le stanze che ritorna, senti l'estate, l'estate che ritorna. Senza rimpianto, senza dolore, senti l'estate, l'estate che è.